In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud. Il Falco e il Gabbiano presenta... Chuck si vola, di Enrico Ruggeri. Bianco, rosso e verdone. Beh, nel corso della nostra vita ci è capitato sicuramente di avere a che fare con persone che pretendono di sapere sempre tutto, gente che parla troppo, convinta delle sue idee e incapace di cambiarle, persone chiuse nella loro visione del mondo e anche delle cose, persone che puoi trovare dappertutto, al bar, in ufficio, all'interno della tua famiglia, i vicini di ombrellone, persone, le definirei ego riferite, cioè vivono la loro vita non tenendo mai in considerazione le idee e le opinioni degli altri. Per esempio tra i cantanti questa è una cosa molto diffusa e sono totalmente autoreferenziali, totalmente concentrate su loro stesse, sulla loro smania di controllo, vivono in questa condizione perenne di ansia che condiziona la vita di tutti quelli che hanno la disgrazia di vivere con loro. Insomma, a tutti noi è capitato di incontrare almeno una volta, ma molte di più, una persona come il protagonista della nostra storia di oggi, l'avvocato Furio Zoccano. Lei è la moglie? Sì. Allora guardi, dai primi esami non risulta niente di preoccupante. Gli ho messo 4 punti in fronte. Soltanto suo marito si trova in uno stato di shock confusionale. Parla. È una logorrea continua, è inarrestabile. Adesso gli ho fatto un'iniezione calmante. Ma guardi, dottore, che lui è sempre così. È il suo stato normale. È fatto così. Ah, è fatto così? E io sono stato con lui per meno di un'ora e... Signora, mi scusi, ma non ce la faccio più. E lo dice a me? Ma suo marito è un nevrotico ansioso di quelli che... Signora, bisognerà seguirlo seriamente, eh? Furio Zoccano nasce a Roma appena dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. L'Italia in quegli anni è un paese povero, il paese raccontato da De Sica in Ladri di Biciclette, gente che è costretta a rimboccarsi le maniche per riuscire a portare ogni sera il pane a tavola. Non è però la situazione di Furio, la sua è una famiglia borghese, agiata, lui può studiare all'università, si iscrive a giurisprudenza, diventa avvocato, tutto va secondo i piani perché lui è avvocato, ma la sua indole lo spinge a lavorare come funzionario al Ministero delle Partecipazioni Statali, insomma è nel mondo della burocrazia e lui lì si trova perfettamente a suo agio. Emigra a Torino, dove conosce la donna che diventerà sua moglie, si chiama Magda, è una ragazza apparentemente, insomma, senza grandi pretese, non brutta ma certamente non bella, più giovane di lui, che vede in Furio l'uomo capace di garantirle una vita tranquilla. E molte donne si suicidano in questo modo, perché si invaghiscono di uno perché garantisce loro una vita tranquilla. E i due, dopo qualche anno di matrimonio, hanno 2 figli, Anton Luca e Anton Giulio. E Furio però, col passare degli anni, dà sfogo al lato più insopportabile della sua personalità, perché è un maniaco del controllo, della programmazione. Magda non riesce più a arginarlo. All'inizio sembra poter reggere l'urto di un uomo così ansioso, così logorroico, poi col passare degli anni si rende conto che Furio è un caso patologico. Magda, per l'amor di Dio, fermati! Ma scusa, Furio, ma che cosa ho fatto? No, non si dispongono i bagagli dentro una macchina così. Tesoro, quando compi queste operazioni devi sempre tener presente di dover comporre un mosaico. Ogni cosa deve combaciare con l'altra. Deve essere come un puzzle, né più e né meno. Su, bambini, salite, venite qua. Anton Giulio, vai al posto d'Anton Luca. E te, Anton Luca, vai al posto d'Anton Giulio. Perché c'è un leggero squilibrio. Questo è già un assestamento più accettabile. D'altro canto, la perfezione appartiene solo a Dio, per carità. D'altra parte la perfezione appartiene solo a Dio. E questa non è una semplice frase, è quasi l'aspirazione segreta che Furio tiene dentro. Visto da fuori, insomma, è un uomo come tanti, ma con qualche dettaglio anomalo. Sì, capelli corti, ha questa barba strana che ricorda un po' quella di un frate, e poi si veste nel modo tipico di chi lavora in un ufficio pubblico: camicia bianca, cravatta, abito tonalità della sabbia, questi occhiali con una montatura che era la moda qualche anno prima, un look che lascia trasparire questa rigidità, la rigidità di cui lui ha farcito la sua esistenza, regole da seguire, da non cambiare mai, come quando con la famiglia deve partire per tornare a Roma a votare. Lui ha stabilito una rigida tabella di marcia che va seguita ovviamente passo passo, non c'è nessuna possibilità di variazione rispetto a quanto lui ha deciso con un così largo anticipo. Perché l'elasticità nella sua concezione di vita non è contemplata, questo suo modo di pensare ovviamente non gli permette di capire che la moglie gli sta lanciando delle grida d'aiuto, perché ormai non ne può più, farebbe a meno di questo marito così pedante, solo che non ha né la forza né il coraggio di dirglielo, anche perché in fondo ha capito benissimo che anche qualora lei facesse un appello, questo appello rimarrebbe destinato a cadere nel vuoto. Magda, scusa, ma che hai lasciato i bambini soli in macchina? Scusami, Furio, ma è proprio necessario che devo venire anch'io con voi a Roma? Scusa, Magda, ma stai scherzando o stai dicendo sul serio? No, ma mi riposo un po', sto un po' sola. E poi voi state più larghi in macchina, eh? Ma a me mi sembra di aver ascoltato una follia, scusa. A parte il fatto che daresti un pessimo esempio ai bambini, che sanno benissimo che andiamo a compiere il nostro dovere di cittadini italiani. Ma poi spieghiamo una cosa, di che ti devi riposare? No, spiegamelo! Spiegamelo! No, di niente. Scusami. Scusa, Magda, dove stai andando? A spegnere lo scaldabagno. Ma come? Ma avevi detto di aver fatto tutto. Allora sei un po' bucciardella. Io vado giù dai bambini. Quando esci, chiudi con le mandate, va bene? Sbrigati che sono le 7:32. Non ce la faccio più! Non ce la faccio! Furio Zoccano è un uomo che ha fatto del controllo, della programmazione, gli ingredienti fondamentali della sua esistenza e non riesce a andare fuori dal seminato, non può sopportare l'idea di cambiare i piani in corsa. Così quando organizza il viaggio in macchina, lui dà fondo a tutta la sua ossessione per le liste, per i preparativi che devono essere portati a termine esclusivamente secondo le sue idee. Lui si ritiene la mente, è l'uomo di concetto che deve essere assistito da una persona, da un braccio che ha il compito di eseguire i suoi ordini, e il braccio è la moglie Magda, che non ha nessuna alternativa, deve assecondare le manie di Furio. Senti tesoro, allora vediamo un po', tutto quello che dovevi fare l'hai fatto? Eh? Sì. Il gas l'hai chiuso? La chiavetta l'hai portata in posizione orizzontale? Sì. Le persiane le hai sprangate? Perfetto. La sacca e i documenti l'hai presa? Sì. Codice fiscale, carta d'identità, partita IVA? Sì. Perfetto. Termos latte, termos acqua e limone, succhi di frutta, sandwich al burro, sandwich al prosciutto, sandwich allo stracchino? Sì. Perfetto. Senti, un'ultimissima cosa, il binocolo l'hai preso? Ma a cosa serve il binocolo? Come che serve? C'è tutto il tratto appenninico da Bologna a Firenze, che paesaggisticamente è una favola. Papà, l'ho preso io. Bravo, 8 ad Anton Giulio e 5 alla mamma. Povera mamma, sto scherzando, ci mancherebbe altro. E quando qualcosa non va secondo i suoi piani, allora lì emergono proprio i tic nervosi di Furio, indicano il senso di insoddisfazione di una vita che lui vuole sia perfetta. Lui ha paura degli imprevisti, solo grazie al suo calcolo, grazie alle sue previsioni esatte lui riesce a trovare un appagamento quasi, quasi carnale. Pronto, parlo col servizio percorribilità strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 91 76 55 barra UTI, come Udine Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar. E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione. D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma? Non ho caghe. Pronto? Pronto? Aci, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea. Naturalmente Furio è dominato dalle sue manie. Una delle sue manie più evidenti è quella per i batteri. Ha una vera e propria fobia per i batteri. Evita accuratamente i bagni pubblici ed è molto critico nei confronti di chi li usa, cioè è assillante nei confronti di chi li usa. La moglie Magda, per esempio, e per lei ha veramente parole di fuoco. Magda, dove state andando? Ben, porto i bambini al gabinetto. Ma allora io parlo al vento. Perché? Allora te lo ripeto per l'850esima volta. I bar e i bagni pubblici sono i distributori automatici della salmonellosi e del tifo, d'accordo? Anton Luca e Anton Giulio, papà vi chiede un grandissimo favore. Tra 20 minuti, 22, 23 al massimo, vi garantisco che giungeremo in una bella e ampia piazzola dove potrete fare con tutta calma i vostri bisognini. Se papà vi chiede questa cortesia, glielo fate questo regalo a papà? Sì, sì, sì, ce la facciamo! Ce la facciamo! Forza allora, dai! Avanti in macchina! Forza, forza! Magda? Sì? Dove ti stai dirigendo? Ma anch'io devo fare i miei bisognini nella piazzuola. Vai, vai! Non sarò certo io a trattenerti con le catene, vai! Se vuoi andare incontro alla salmonellosi la troverai là con una mano tesa! Vai, vai! Magda? Almeno usa questo, scusa! Ma cosa l'è? Un copritavoletta sterilizzato, perlomeno cerchiamo di rendere la vita difficile ai bacilli, no? Dai! Tanti auguri e in bocca al vibrione! Che te devo dire? Magda non riesce più a sopportare un uomo come lui, imprigionato nella sua gabbia fatta di regole, di convinzioni, di idee che ai suoi occhi appaiono logiche, ma che per il resto del mondo non hanno ragione di esistere. È un uomo robot, Furio, non lascia trasparire sentimenti, è anaffettivo, sembra artificioso in tutto quello che fa, non è capace di provare empatia verso gli altri, è un uomo poco umano, non si rende conto di vivere costantemente con questa maschera di pedante perfezione calata sulla faccia e lui è impermeabile di fronte a tutto quello che accade attorno a lui. E poi bisogna dire che Furio è anche petulante e lo è su ogni cosa, anche sulla più insignificante. Naturalmente la vittima designata è sempre lei, è la moglie Magda, che per limitare i danni, per amor di quiete, asseconda le manie del marito. A proposito, il prosciutto dove l'hai preso? Da Luciano o da Gino? Luciano. La prossima volta, scusa, prendilo da Gino. A parte il fatto che il taglio è migliore, ma poi il prosciutto di Gino c'ha tutto l'altro sapore rispetto a quello di Luciano, scusa. D'accordo? Sì. Dal prosciutto alla velocità di crociera, con Furio al volante, tutto deve andare secondo i suoi piani, però la vita ti riserva degli imprevisti che possono verificarsi anche durante il viaggio, traffico, brutto tempo, una gomma che si fora, ecco, Furio affronta sempre tutte queste cose a modo suo, segue le sue regole, le sue convinzioni, anche quando la soluzione è a portata di mano, lui deve procedere secondo questa rigida visione del mondo, un mondo pieno di diritti e doveri ben definiti, di diritti e doveri suoi e delle altre persone. Anteriore destra, come voleva si dimostrare? Porco giudaccio infame! Vabbè, adesso comunque senza farci prendere dallo sconforto, vediamo immediatamente di individuare dov'è la colonnina di emergenza più vicina. Ma cosa c'entra la colonnina, Furio? Ma per i servizi di soccorso ASCI? Magda, svegliati tesoro! Ma Furio, per una gomma? Magda, è un nostro diritto chiamare, un loro dovere arrivare. D'accordo? Anton Giulio, passa un po' il binocolo a papà. Una è qua, l'altra è là. Sembrerebbero tutte e due equidistanti. Tuttavia, se si considera che da qua c'è una leggera salita, qua scende leggermente in declivio, forse da qua guadagno 3-4 metri. Aggiudicato! Allora, Magda, fammi una cortesia intanto, piazzami il triangolo d'emergenza a circa 13-14 metri da qua, d'accordo? Al lavoro, forza! Furio torna indietro e riprende Magda, che si è fatta aiutare da un misterioso sconosciuto del quale sentiremo parlare ancora. Vive questo gesto come una mancanza di fiducia nei suoi confronti, nelle sue capacità di uomo, di marito che ha sempre la soluzione in tasca, si sente delegittimato e allora deve riacquistare della credibilità, probabilmente soprattutto agli occhi di se stesso. E cosa fa? Smonta la gomma appena riparata e rimonta tutta quella bucata per evitare una figuraccia di fronte ai soccorsi che ha chiamato poco prima e dice una soluzione, non la troverai mai, l'unica soluzione che a lui viene in mente è questa, un uomo normale se ne andrebbe con la gomma riparata, lui no, rimane fedele alla sua linea e non vuole perdere credibilità di fronte al soccorso ACI che è per lui la certezza, l'autorità, preferisce buttare via del tempo prezioso, insomma è un uomo solo contro tutti. Chuck si vola. Bianco, rosso e verdone. Stiamo raccontando la storia di un uomo che ha fatto del controllo di ogni singolo aspetto della sua vita il centro della sua esistenza, della sua vita e di quella di chi gli sta attorno, in particolare della sua famiglia e in particolare della moglie Magda, che è una donna che ormai è arrivata al limite della crisi di nervi a causa delle manie del marito. Il suo nome è Furio Zoccano, età approssimativa 40, lavora per il Ministero delle Partecipazioni Statali, porta chi non la pensa come lui a cedere per sfinimento, ha questa maschera da uomo deciso, in realtà è chiaro, dietro c'è un profondo senso di inadeguatezza, lui lo fa ripetendo dei mantra, dei ritornelli che non abbandona mai. Magda, tu mi adori? Sì. E allora lo vedi che la cosa è reciproca? Sì, queste sono le parole d'amore che Magda sente ogni giorno uscire dalla bocca del marito, codificate anche queste, senza un attimo di follia, di diversità, una volta dall'altra. E lei rassegnata deve confermare mestamente, tu mi adori, lei sì, come a cercare di fare tacere il suo marito. Magda, insomma, abbiamo capito, è una sciagurata. Per far star zitto Furio servirebbero solo misure drastiche. Furio o è vivo o è morto. Famigliola, un attimo di silenzio. Allora vi comunico che in questo istante la macchina ha percorso 650 km. Il suo rodaggio è terminato. Bambini, vogliamo dare la prima scassata alla macchina? Sì, sì, dai, dai. Vogliamo? Vogliamo dare una lezione a quel bestione là davanti che fra l'altro di domenica non potrebbe neanche circolare? Furio! Sì, dai! Ma che ti prego! Dai. Pronti, eh? Ma tu guarda che dragonanza, sembra i padroni della strada, vediamo chi la spinta! No, frena! Rallenta! Ti prego, Magda, non intrometterti perché ho la perfetta padronanza del mezzo! Ma li mortacci, uomo, vai la strada! Ma chi ti ha dato la patente? Pure i ragazzini! Non parla più, ma allora è morto! Magda sa che per verificare se Furio è vivo o no bisogna controllare che parli, non che respiri. Si lascia scappare queste parole che raccontano tutto di Furio Zoccano, uno che starà zitto solo quando morirà veramente, finché avrà vita vorrà dire la sua. E dalla voce di Magda si percepisce quasi una sensazione di sollievo all'idea di non avere più Furio al suo fianco. È come se per lei si aprissero le porte della prigione, come se lassero le convinzioni, queste regole imposte dal marito al quale lei non sa dire di no. La boccata d'ossigeno durerà poco, in realtà Furio non è morto, ha perso solo i sensi, verrà portato in ospedale, anche lì dà prova della sua petulanza e dimostrando a tutti di che pasta è fatto. No, allora, no, guardi, caro dottore, le dico subito che non mi faccio iniettare un liquido del quale non conosco la composizione, per carità, No, non per nulla, non per nulla. Basta, no, state fermi. Perché una volta si ferì con un ferro arrugginito. Vollero per forza fargli una antitetanica, ma niente, il risultato fu che ebbe uno shock del rito. E solo sedandolo i medici sono in grado di curarlo. Dopo nemmeno un giorno lascia l'ospedale perché dice sono fatto di tubi d'acciaio. Magda accoglie la notizia con un po' di rassegnazione, anche perché ha avuto insomma una notte particolare, non peccaminosa assolutamente, ma ha fatto a tempo a rimanere turbata da questo misterioso sconosciuto che continua a percorrere la strada verso Roma parallelamente a questa terribile famiglia, però l'incidente è risolto in qualche modo, sono saltati i passaggi della tabella di marcia, bisogna recuperare il tempo perduto, Furio non può mettersi al volante, ma comunque si riparte e lo sconosciuto ritorna nell'oblio, almeno apparentemente, e adesso Magda deve pensare a guidare con Furio a lato, quindi immaginate, lei è sempre più insofferente, anche perché il marito ovviamente le dà mille indicazioni sul modo di guidare una vettura. Scusa Magda, ma come stai tenendo le mani sul volante? Perché, Furio? Ah, tesoro mio, le mani sul volante vanno messe alle 10 e 15. Questa è la posizione ideale. Tu le stai tenendo alle 6.25. Pericolosissimo, gli americani guidano alle 6.25 e infatti muoiono come mosche. Stai più sulla destra, Magda. Un pochino meno di acceleratore. Un pochino meno. Un pochino meno. Ecco. Rallenta, Magda. Ecco, questa è la cretineria degli italiani. Tu vedrai se fra un chilometro non troveremo una frittata. Ma che cosa dici, Furio? Va bene, scusa, come l'ho detto, eh? Sei ancora un po' nervoso, no, per quello che è successo, eh? Pure te c'hai ragione, tesoro mio, non ti preoccupare. Adesso andiamo calmi, tranquilli a casa, eh? Tanto nessuno ci corre dietro. Proprio nessuno. E vivere il resto del viaggio da passeggero dà la possibilità a Furio di organizzare ancora meglio quello che dovrà fare la famiglia una volta arrivati a Roma. Eh sì, è come se Furio avesse paura di perdere ogni singolo istante della sua vita. Per lui non devono esserci tempi morti, deve avere sempre l'agenda piena, forse per timore di trovarsi da solo con se stesso e fare i conti con quella che è la sua vera situazione, uomo imprigionato dalla sua ansia, dalla sua visione limitata del mondo, fermo sulle sue convinzioni che non possono prevedere la minima modifica in corsa. Senti, vogliamo vedere un po' di fare il programmino per il dopo voto? Allora, io direi innanzitutto, per cominciare, operazione strudel, la mamma ne va pazza. Con lo strudel andiamo là a pranzo, rimaniamo fino alle 3.25-3.30 grosso modo, poi direi di fare un salto dallo zio Piero. Dallo zio Piero consiglierei una visita anche a Nino, dove c'è Clara e Michele e Marcellino, d'accordo? Dopodiché io direi di mettere a votazione queste due soluzioni. O andiamo a vedere la Fiera di Roma o andiamo al Foro Romano. Aperta la votazione, io m'astengo. Foro Romano. La Fiera di Roma, sì, sì, è più bella, andiamo alla Fiera di Roma. Fiera di Roma, bambini, aggiudicata la Fiera di Roma. Sì, lui si astiene da una votazione ininfluente, cioè ha già programmato tutto e lascia le briciole agli altri, solo scegliere se andare ai Fori Romani o alla Fiera di Roma, nulla in confronto a quanto lui ha programmato la vita degli altri. Non tiene conto ovviamente dell'opinione degli altri, soprattutto della moglie Magda, lui va avanti per la sua strada, la sicurezza che ha non sa che può diventare un'arma a doppio taglio che può lasciare il segno anche nella sua esistenza. Chuck si vola. Bianco, rosso e verdone. Stiamo per arrivare alla destinazione del viaggio della famiglia Zoccano da Torino a Roma. La destinazione è il seggio elettorale. E Furio ha viaggiato parlando, rendendo la vita impossibile a Magda, che per mantenere la calma deve trovare soluzioni alternative e ovviamente che non piacciono al marito. Sei andata al bar di nascosto? Ma mi vuoi spiegare che necessità c'era se ci siamo appositamente portati dietro i termos? Ma Furio, io ho preso una pasticca. Ancora psicofarmaci? Magda, io ho l'impressione che tu ne stia abusando un po' troppo, Magda, tu ti stai rovinando, Magda, tu non ti vuoi bene e questo è un elemento di grandissimo dispiacere per me, grandissimo proprio. Comunque sia, per tagliare corto, bisogna andare in macchina a cambiare Antolluca che si è fatto la pipì addosso. Ma come? Ma non doveva resistere fino alla piazzola? Ce l'avrebbe sicuramente fatta, se io non mi fossi dovuto assentare per venirti a chiedere questa famigerata carta carburante, E così qua tenergumi l'hanno sbatacchiato nella macchina sollecitandogli la vescica. Andiamo, forza, dai, muoviti. chiunque li veda da fuori capisce che c'è uno sbilanciamento evidente di questo rapporto. C'è una donna vittima di un uomo dominato dall'ansia, dalla voglia di comandare, probabilmente come riflesso di una vita insoddisfacente dal punto di vista sentimentale, lavorativo, professionale, probabilmente anche sessuale, perché insomma non ce lo immaginiamo questo signore atto a grandi performance. Probabilmente tutto questo è frutto anche di un'infanzia vissuta in maniera anaffettiva, sia nel dare che nel ricevere, e la mania di controllo è evidentemente, insomma, parte di una sindrome molto più profonda. Magda è in balia di quell'uomo che vuole controllare tutto di lei, anche la libertà di voto. Oh, Meda, dolce Meda, finalmente ti abbiamo raggiunto. Ah, già, però adesso nasce un problema. Ma che problema, Furio? Finalmente adesso possiamo andare dentro a votare, né? Già, e i bambini? Non essendo opportuno portarli dentro, con chi li lasciamo? Dove li lasciamo? Eh? E allora andiamo a votare uno alla volta, là. Già, 10 e lode alla mamma. Mi sembra la soluzione migliore. Allora senti, facciamo una cosa. Vado io a votare e tu rimani qua con i bambini. Io torno, resto io con i bambini, vai a votare tu, eh? Mi sembra che tutto quanto guardi nel migliore dei modi, d'accordo? Senti, allora, il certificato elettorale già ce l'hai. Per chi votare già lo sai. Mi raccomando, le preferenze che sono il 4, il 16 e il 44. Mi sembra che tutto, eh? Tu mi adori? Sì. E allora lo vedi che la cosa è reciproca? A fra poco, cara. Ma proprio quando Furio è convinto di avere tutto sotto controllo, la situazione gli sfugge di mano. Magda è arrivata al culmine della sopportazione e ha visto forse in quel misterioso viaggiatore, che fa il batterista o il percussionista, quindi un musicista, una persona particolare, ha visto in quest'uomo la sua salvezza e decide di fare il suo colpo d'ala, la mossa che non aveva mai neanche pensato di fare. Volta le spalle al marito padrone, lo lascia solo con le sue manie e con le sue ansie. Scusate, ma la mamma dove è andata? È andata via. Come è andata via dove? Non lo so, ci ha baciato e è andata via. Ma come è andata a votare trasgredendo a tutto quello che avevamo deciso, lasciandovi solo in macchina? Ma è roba da pazzi. Forza, scendiamo un po', andiamo un po' a vedere. Scusate, ma Ghiglioni Magda inzoccano. È qui, è venuta a votare. Un attimo che controllo. Grazie. No, non ha ancora votato. Grazie. Ma è possibile che non mi ha detto niente? No! Adesso la mamma si è volatilizzata. Magda? Magda? Magda? Magda! E oggi come sta Furio? Chissà cosa gli sta succedendo, cosa gli è successo in tutti questi anni, e prova a raccontarlo da Fabio Fazio. Racconta il Natale dell'anno scorso, Natale passato in famiglia. Sono andato a Gavignano, sono andato da zia Zelia, zia Zoraide, zia Zita e gli abbiamo portato un panettone, panettone unico grande, mia moglie l'ha fatto a pezzettini e li ha imboccate una ad una perché non possono più masticare, hanno avuto dei problemi, hanno 103, 104 e 103. Poi siamo andati a Bacone dove c'era zia Bettina, zio Ermanno e zia Fulvia, però abbiamo portato un pandoro privo di zucchero, di quello vellutato, sì, perché sì, hanno il diabete, infatti zia Fulvia gli hanno tagliato le gambe. Però al momento dell'apertura dello spumante io mi volto e non c'era più mia moglie. Esco e la vedo praticamente sopra il parapetto di un ponte che stava dritta. Gli ho detto: Magda, ma cosa fai? Lei era così. Gli ho detto: basta con questi atteggiamenti, diciamo così, anarchici, in cui vuoi sempre dare così lo stupore. Dai, sempre al centro dell'attenzione. Scendi per favore, imbecille. È scesa. C'è qualcosa che non va in lei, andrà indagato. E naturalmente è lecito che noi ci si chieda se lui racconta una cosa vera o è talmente immedesimato nella sua follia che non ha mai accettato di essere stato lasciato da Magda e in qualche modo parla di lei come se ancora vivesse ora assieme. Questo probabilmente non lo sapremo mai. Sapremo invece quanti uomini alla Furio Zoccano abbiamo incontrato nella nostra vita, i detentori della verità assoluta, che costruiscono la loro vita sulle basi di manie, manovrano o pretendono di poter manovrare l'esistenza degli altri, non riescono a trovare magari una lettura razionale, vivono così, non si lasciano neanche lambire dagli eventi di un'esistenza che alla fine renderebbe anche loro più umani. E beh, io non sono particolarmente superstizioso, non penso che ci siano persone che portano sfortuna, però cerco di circondarmi di persone positive, quelli alla Furio Zoccano, insomma, cerco di tenerli fuori dalla mia vita, se ci sono stati cerco di estrometterli. Ciao, ci sentiamo domani alle 15, mi raccomando, non alle 15:10, non alle 15:05, cercate di essere precisi, azzeccate la frequenza, se siete in macchina magari accostate, ascoltate con attenzione, perché io faccio di tutto. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Fabio Donolato, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.